America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. L'accordo di ieri del 5 più 1 con l'Iran, beh, ormai appartiene alla storia, a meno naturalmente di sorprese interne negli Stati Uniti d'America. Ne abbiamo parlato per molti mesi, ne abbiamo parlato non più tardi di lunedì, cercando di capire quali fossero le implicazioni di questo importante accordo per contenere l'avanzata nucleare dell'Iran. Di certo è un game changer, come si dice in gergo, cioè è un cambiamento vero, un cambiamento importante, e ci porta a scenari nuovi. La svolta è soprattutto per il presidente americano, perché la firma di ieri a Vienna diventa il suo più importante successo di politica estera. Questo accordo con Teheran ha un deciso impatto strategico, appunto, come dicevo, un game changer, e questo su tre livelli diversi. Due sono potenzialmente positivi: il primo è che le grandi potenze, quando si mettono insieme, qualche cosa concludono; il secondo è che, quando si elimineranno le sanzioni a Teheran, e questo succederà abbastanza presto, ci saranno delle conseguenze economiche molto positive per tutti. Il terzo invece, potenzialmente negativo, reazioni negative in Israele, reazioni negative in Arabia Saudita, reazioni negative soprattutto in Congresso. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not: a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Ecco, avete sentito Barack Obama ieri, subito dopo l'annuncio, che dice: questo accordo raggiunto a Vienna impedirà all'Iran di avere un'arma nucleare. Questo dimostra che la diplomazia statunitense può portare cambiamenti reali e significativi. Poi Barack Obama ha citato John Kennedy, dice: non negoziamo, diceva il presidente americano, il grande presidente americano ucciso a Dallas, non negoziamo mai sulla base della paura, ma non abbiamo mai paura di negoziare. L'accordo, dice Obama, fermerà la diffusione delle armi nucleari in Medio Oriente. Questo accordo non è stato costruito sulla fiducia, ma sulle verifiche. Ecco, questo è un punto importante, perché ci saranno delle verifiche, gli ispettori andranno a controllare nel dettaglio che l'Iran stia in effetti rispettando i suoi impegni. Poi Obama aggiunge: se l'Iran violerà l'accordo, le sanzioni saranno immediatamente reintrodotte. Ecco, il Parlamento americano non ha preso bene questo accordo. Sapevamo che c'era un po' di maretta, molti repubblicani, la gran maggioranza dei repubblicani, ma anche molti democratici, sono preoccupati. Sentiamo per tutti il presidente della Camera, il repubblicano John Boehner. From what I know about thus far, is unacceptable. It's going to hand a dangerous regime billions of dollars in sanctions relief while paving the way for a nuclear Iran. Ecco, Boehner, l'avete sentito, le sue dichiarazioni sono diametralmente opposte a quelle di Barack Obama, perché dice: l'accordo con l'Iran alimenterà nel mondo la corsa alle armi nucleari. E Boehner aggiunge: invece di rendere il mondo meno pericoloso, questo accordo incoraggerà l'Iran, il più grande sponsor del terrore, aiutandolo a stabilizzare e legittimare il suo regime e a diffondere ancora più violenza e instabilità nella regione. Combatteremo un cattivo accordo, sbagliato per la nostra sicurezza nazionale e sbagliato per il nostro paese. Ecco, dichiarazioni minacciose dal punto di vista pratico. Potrebbe esserci un voto negativo del Congresso. Se ci fosse, Barack Obama ha già risposto, sentiamolo. I am confident that this deal will meet the national security interests of the United States and our allies. So I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal. Barack Obama, che dice: la storia mostra che l'America deve guidare non solo con la sua forza, ma con i suoi principi, e dunque porrò il veto su qualunque legge che impedisca l'attuazione di questo accordo. C'è dunque già battaglia politica a Washington. E cosa significa il veto presidenziale? Significa che se la Camera e il Senato respingeranno questa proposta di Obama, poi ci sarà un veto del presidente. A quel punto il progetto tornerà in Parlamento e dovrà essere votato con una maggioranza superiore ai 2/3 del voto. È chiaro che per Barack Obama si tratterebbe di un indebolimento, non avrebbe il supporto del suo Parlamento per questo importante accordo che, come vi dicevo, cambia davvero nel momento in cui viene applicato, nel momento in cui verrà applicato la situazione geopolitica. Come? Vediamo il primo potenzialmente positivo. Il primo riguarda il rapporto con Mosca, perché come vi dicevo prima, con questo accordo si dimostra che quando Stati Uniti e Russia decidono di sedersi allo stesso tavolo con interessi comuni, beh, le cose capitano, succedono, e quindi l'auspicio ovvio è che questa collaborazione possa essere estesa ad altri dossier, primo fra tutti quello per chiudere una partita chiave per l'Europa. La crisi stantia, pericolosa, tuttora incerta nonostante gli accordi di Minsk fra Russia e Ucraina. Il secondo game changer è economico, come vi dicevo, ci riguarda direttamente, perché non c'è soltanto lo sblocco della produzione di petrolio iraniano, uno sblocco che avrà un impatto sul mercato, ma ci sarà un ritorno dell'importante flusso di ordini che molte aziende italiane ed europee ricevevano quando con l'Iran si lavorava. Il terzo game changer, che è quello poi potenzialmente pericoloso, riguarda il Medio Oriente, perché come vi ho detto abbiamo avuto commenti molto negativi da Israele, sappiamo che l'Arabia Saudita la pensa esattamente allo stesso modo di Gerusalemme e loro temono che l'Iran alla fine si rafforzerà, sarà economicamente, politicamente molto più solido grazie all'eliminazione delle sanzioni, tornerà a rappresentare una minaccia nucleare non appena deciderà di farlo, e a quel punto potrebbe farlo in brevissimo tempo, e come vi dicevo anche i repubblicani la pensano così. Ma è soprattutto in Medio Oriente che abbiamo un problema, abbiamo visto le conseguenze dell'apertura degli Stati Uniti all'Iran, secondo me queste conseguenze sono state anche nella nascita del califfato, nel rafforzamento di ISIS, grazie all'appoggio diretto e indiretto che sia dell'Arabia Saudita, che proprio voleva contenere un espansionismo sciita da parte dell'Iran in Iraq, in Siria e nello Yemen. Questo problema resta, l'accordo è solo nucleare, l'Iran non si impegna a fare marcia indietro su altri fronti, e dunque per noi c'è stato già un prezzo molto caro. Dobbiamo sperare, anche se nulla di esplicito è stato sottoscritto, che ci siano delle intese, dei contingency plan, come dire, degli accordi, diciamo, privati per gestire questi vari aspetti che cambiano radicalmente lo scenario politico ed economico medio orientale. Oggi, con l'inchiostro fresco sui documenti, dobbiamo auspicare che vari nodi geopolitici possano essere risolti. Realisticamente parlando, dalla questione Arabia Saudita-Israele a quella Ucraina, la percezione resta che la situazione sia già sfuggita di mano. A Obama toccherà adesso dimostrare il contrario, oltre l'accordo iraniano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio proporvi oggi una delle canzoni più importanti dell'anno. Pensate che su YouTube ha toccato oggi il livello di 665 milioni di hits. La canzone è di Wiz Khalifa con Charlie Puth, See You Again. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I